Capitolo 16, 1 giugno 1821. Diario di Helen Graham. Siamo appena tornati a Stanningley. Anzi, siamo arrivati già da qualche giorno, ma non mi sono ancora ambientata. Forse non mi ambienterò mai. Siamo venuti via dalla città prima del previsto per via delle condizioni dello zio. Mi domando cosa sarebbe successo se fossimo rimasti fino alla fine. Improvvisamente la vita di campagna non mi piace più. Le cose che facevo prima le trovo noiose. I miei passatempi senza orizzonte. La musica non mi dà piacere perché nessuno l'ascolta. Passeggiare non mi dà piacere perché non incontro nessuno. I libri non mi danno piacere perché sono talmente piena del ricordo delle ultime settimane che non riesco più a restare concentrata sulla lettura. Disegnare è meglio, perché riesco a farlo mentre penso e anche se al momento quel che faccio non può essere visto da nessuno a parte me e le persone che non sono interessate a vederlo, potrà essere visto in futuro. E c'è un volto che cerco sempre di disegnare, di tratteggiare, senza mai riuscirci, e tutto ciò mi irrita. Né riesco a togliermi dalla testa il padrone di quel volto e non tento nemmeno di farlo. Mi domando se pensi a me, se mai lo rivedrò, e molte altre cose a cui potranno rispondere unicamente il tempo e il fatto. E ammesso che la risposta a queste mie domande fosse affermativa, allora mi chiedo se me ne pentirò, come direbbe la zia se sapesse a cosa sto pensando. Ricordo bene la nostra conversazione di quella sera, prima che partissimo per la città. Eravamo davanti al fuoco, da sole. Lo zio si era ritirato per un attacco di gotta. «Helen, pensi mai al matrimonio?» mi chiese lei dopo un lungo silenzio. «Sì, ci penso spesso. Intendo dire, ci pensi che potresti in effetti fidanzarti prima della fine della stagione?» «Talvolta sì, anche se non credo che accadrà mai. E perché no? Perché sono sicura che siano davvero pochi gli uomini che mi piacerebbe sposare e che di questi pochi non avrò la fortuna di conoscerne nessuno, immagino. E seppure ne conoscessi uno, ci sarebbero scarse probabilità di trovarlo ancora libero che possa innamorarsi di me. Ma che discorsi sono? Certo, sicuramente sono pochi gli uomini che sceglieresti di sposare tu stessa, e lo voglio ben sperare. È impossibile, infatti, desiderare qualcuno prima che sia lui a chiedere la tua mano. Nessun uomo deve ottenere l'affetto di una fanciulla senza prima averlo conquistato. Ma poi, quando questo accade, quando la sua fortezza è assediata come si deve, il cuore cede con facilità. E prima che la ragazza quasi se ne renda conto, spesso anche in direzione contraria al suo buon senso. O a quel che pensava le sarebbe potuto piacere. Stai ben attenta, Helen. Tu stai per entrare in società e devi essere cauta e circospetta, non lasciare che il primo arrivato che desideri il tuo cuore riesca a conquistarlo. Hai solo 18 anni e tutto il tempo a disposizione. Nessuno di noi due, né lo zio né io, abbiamo premura di smettere di occuparci di te. Vedrai, non mancheranno di certo i pretendenti. Sei di buona famiglia, di buona sostanza e di belle speranze. Inoltre, te lo dico perché tanto prima o poi qualcuno lo farà al posto mio, hai dalla tua anche la bellezza. Spero solo che tu non debba un giorno maledirla. Lo spero anch'io, zia. Ma perché pensi che potrebbe succedere? Perché la bellezza, come i soldi del resto, attira gli uomini peggiori. E può essere fonte di guai. A te è capitato, zia? No, Helen, mi disse seria. Ma so di molte persone cui è successo. Alcune per ingenuità si sono lasciate ingannare, altre per debolezza sono rimaste vittime di insidie e tentazioni di cui è meglio non parlare. D'accordo, non sarò né ingenua né debole. Ricordati di San Pietro, Helen. Non ostentare sicurezza, resta in allerta. Fai la guardia alle tue orecchie e ai tuoi occhi, che sono l'ingresso del tuo cuore, e alle tue labbra, che ne sono invece l'uscita, affinché non ti cedano ad alcuna imprudenza. Rimani fredda davanti ai tuoi corteggiatori, finché non sarai certa del loro valore, e quando ne avrai individuato uno, che il tuo affetto sia unicamente frutto del tuo giudizio. Prima osservalo, poi approvalo, e infine amalo. Resta cieca alla bella presenza, sorda alle lusinghe e alla conversazione. Queste sono cose inutili e pericolose che il tentatore usa per attirare in trappola la povera scriteriata. Essere importanti sono i valori più alti, il senno, la rispettabilità e un minimo di possibilità economiche. Se finissi per sposare l'uomo più bello ed elegante del mondo, non immagini quanto saresti infelice se si rivelasse poi anche un mascalzone o uno sciocco intrattabile. Ma, zia, se tutti facessero come dici tu, i poveri mascalzoni e gli sciocchi intrattabili, che dovrebbero fare? Finirebbe il mondo. Tranquilla, mia cara, i mascalzoni hanno sempre una buona riserva di compagne, quelle del sesso opposto che sono come loro. Segui il mio consiglio, dico sul serio, Helen, non voglio vederti scherzare su questa faccenda. Il matrimonio non è da prendere alla leggera. Era talmente severo il suo tono che chiunque avrebbe pensato che l'avesse imparato sulla sua pelle. Ma sì, lo so, quel che dici è vero e assennato, ma non devi davvero preoccuparti. Non solo giudicherei un errore sposare un uomo privo di intelligenza, ma non ne avrei mai neppure la tentazione, neanche se fosse bello o affascinante. Potrei nutrire disprezzo nei suoi confronti, magari compassione, qualsiasi cosa, ma non l'amore. Il mio amore si fonderà per forza sul mio giudizio. Devo poter rispettare l'uomo che sposo, o non potrò mai amarlo. Dunque, stai pur tranquilla. Spero che sia come dici. Ne sono sicura. Oh, non ti sei ancora misurata con la realtà, Helen. Quindi possiamo solo sperare. Concluse con cautela e distacco. La sua mancanza di fiducia mi innervosiva, ma non posso dire che la sua diffidenza fosse del tutto infondata, e i suoi consigli sono stati più facili da ricordare che da mettere in pratica. A tratti ho persino dubitato che fossero dei buoni suggerimenti. Parevano sensati, questo sì, almeno in teoria e seppure coi loro limiti, ma c'erano alcune eventualità che non aveva previsto. Mi chiedo se sia mai stata innamorata. Iniziai la mia carriera, o la mia campagna, come la definiva mio zio, forte delle speranze che quella conversazione mi aveva lasciato e piena di fiducia nelle mie nuove capacità di giudizio. All'inizio ero eccitata dalla novità e dalla nostra nuova vita a Londra, ma presto quella confusione mi stufò e cominciai a rimpiangere la tranquillità della campagna. Le nuove amicizie, femminili come maschili, erano sempre deludenti, mi irritavano e mi avvilivano. Non ne potevo più di osservare le loro stranezze e ridere delle loro follie, dovendo poi tenere tutte le critiche per me, dato che la zia non voleva neppure sentirle. Soprattutto le ragazze erano superficiali, insensibili e false. I ragazzi erano un po' meglio, ma non li conoscevo altrettanto bene e molti di loro mi corteggiavano, quindi non potevo esserne così sicura. Le premure che avevano per me mi gratificavano, ma dopo un minuto già le trovavo insopportabili. Mi irritavano perché facevano leva sulle mie debolezze, sulla mia vanità, e temevo che avrei finito per somigliare a quelle donne che tanto disprezzavo. C'era anche un signore più grande che mi stava dietro, un amico dello zio, convinto che non meritassi altro che di sposare lui, che però non solo era vecchio, ma brutto e sgradevole. Era pure dedito al vizio, anche se mia zia non voleva che lo dicessi, pur riconoscendo che non fosse un santo. E poi ce n'era uno, non altrettanto insopportabile, ma irritante solo per il fatto che mia zia non faceva che tessermi le sue lodi e parlarmi di lui ad ogni occasione. Il noiosissimo signor Borham. Ancora mi vengono i brividi se ripenso al modo in cui mi parlava fitto fitto per ore quando sedeva accanto a me. Credeva di elevare il mio spirito impartendomi i suoi postulati e di migliorare il mio discernimento. A volte invece pensava di abbassarsi al mio livello e faceva discorsi sciocchi che avrebbero dovuto divertirmi. Ma in fondo era una brava persona e se solo si fosse tenuto più a distanza non l'avrei avuto tanto in antipatia. Invece mi imponeva costantemente la sua presenza, privandomi al tempo stesso di godere di altra compagnia. Una sera, durante un ballo, fu particolarmente odioso, tanto da farmi temere che la festa sarebbe stata una noia tremenda. Avevo appena ballato con un elegantone e il signor Borham mi si appiccicò. Non ballava mai, stava tutto il tempo seduto e mi parlava così vicino al viso da lasciar credere che la sua corte fosse ben accetta. Mia zia, intanto, lo guardava beata e tifava per lui. Io facevo il possibile per convincerlo ad allontanarsi, anche gesti di evidente insofferenza al limite della maleducazione, ma lui niente. Un grave silenzio lo scambiava per attenzione, una risposta acida per un'intemperanza dovuta all'età che andava accolta con un semplice rimprovero. e quando lo contraddicevo mi condannava a una serie infinita di ragionamenti e argomentazioni per dimostrarmi le sue ragioni e convincermi a cambiare idea. Quella sera c'era qualcun altro a guardarci che aveva ben capito la situazione. Osservava l'insistenza del vecchio e la mia palese irritazione, sorridendo a ogni mia nuova tagliente risposta. Infine si allontanò per raggiungere la padrona di casa e chiederle forse di essermi presentato. E infatti, dopo un momento, arrivarono entrambi e mi fu presentato come il signor Huntington, figlio di un amico di mio zio da poco scomparso. Mi invitò a ballare e io accettai di buon grado. Rimasi con lui per tutto il poco tempo che restammo lì, dato che, come al solito, mia zia volle andar via presto. Mi dispiacque andar via. Il mio nuovo compagno sembrava piacevole e divertente, molto sicuro di sé e gentile in tutto quel che faceva e diceva. Un sollievo per la mia mente dopo la rigidità che mi era toccato subire. Certo, si comportava e parlava con eccessiva arroganza, forse, ma ero così contenta di essere riuscita a liberarmi di Borham da non farci troppo caso. E allora, Helen, come procedono le cose con il signor Borham? Mi domandò la zia una volta preso posto in carrozza. Mai andate peggio, le dissi. Mi parve dispiaciuta, ma non insistette. E chi era quel signore con cui hai ballato dopo, tanto impaziente di aiutarti a indossare lo scialle? No, che non era impaziente, zia. Anzi, non mi avrebbe affatto aiutato se non avesse visto Borham avvicinarsi. A quel punto mi ha detto con un sorriso: Coraggio, lasciate che vi eviti questa tortura. Hai chiesto chi era? Ripeté lei con freddezza. Il signor Huntington, il figlio di quell'amico di zio. Ah, ho sentito parlare di lui da tuo zio, in effetti. Diceva un bel ragazzo il giovane Huntington, sebbene un po' sregolato. Stai attenta, quindi. Cosa significa un pose regolato? Ah, senza valori e dedito ai vizi tipici della gioventù. Ho sentito io stessa lo zio raccontare di quanto anche lui fosse vivace da giovane, dissi. La zia scosse il capo. Si vede che stava scherzando, conclusi. Ma riguardo al signor Huntington, di certo ha parlato senza conoscerlo. Non vedo cosa possa esserci di male dietro due così begli occhi azzurri. Ti sbagli, mia cara, rispose lei, sospirando. Su via, non siamo severe, zia. E poi sono certa di non sbagliarmi. Sono bravissima nello studio delle fisionomie. Io non giudico una persona dalla sua bellezza, ma dall'espressione complessiva del viso. Dalla tua, ad esempio, si capisce che non sei di natura allegra né passionale. Da quella del signor Wilmot, che è un vecchio cialtrone. Da quella del signor Borham, che non è una piacevole compagnia. E da quella del signor Huntington, che non è uno stupido né un mascalzone. Sebbene non sia probabilmente un santo né un saggio. Eppure tutto questo non ha alcuna importanza per me, perché non credo avrò occasione di vederlo ancora, se non a qualche altra festa danzante. E invece no, lo rividi la mattina dopo. Venne a trovare mio zio, scusandosi per non essersi presentato prima, ma era rientrato in Inghilterra da poco e giusto la sera prima gli avevano detto che anche lo zio era in città. Dopo quella volta lo incontrai spesso, sia in occasioni pubbliche che in casa nostra. Veniva di frequente a trovare il suo vecchio amico, che dal canto suo non si mostrava mai troppo contento di tanta premura. Chissà come mai quel ragazzo viene a trovarmi così spesso. Tu ne sai qualcosa, Helen? Di sicuro non è la mia compagnia che cerca, né io la sua. In questo caso diglielo, rispose mia zia. E perché dovrei? Se non fa tanto piacere a me, magari a qualcun altro fa piacere, le disse facendomi l'occhiolino. Ed è anche un buon partito, Peggy. Magari non tanto quanto Wilmot, ma Helen di Wilmot non vuol saperne. Mi domando perché questi vecchi non vadano mai a genio le nostre ragazze, malgrado tutti i loro soldi e la pratica di vita che hanno alle spalle. Potrei scommetterci che lei preferirebbe 100 volte questo ragazzo senza un soldo a Wilmot, pur con una casa piena zeppa d'oro. Non è così, Nell? Eh sì, zio, è vero, ma non rendi giustizia al povero Huntington perché, a dire il vero, preferirei restare zitella o diventare una cattona piuttosto che essere la signora Wilmot. E la signora Huntington? Preferiresti essere qualcos'altro in quel caso? Ma non ho mai preso in considerazione una simile prospettiva, te lo dirò quando ci avrò pensato. Ah, dunque la cosa va presa in considerazione. Ma dimmi, a cattona a parte, in quel caso preferiresti essere zitella o no? Non posso dirlo, non ho ricevuto alcuna proposta. Detto questo, Lasciai la stanza per sottrarmi alle altre domande. Poco dopo vidi dalla finestra che stava arrivando il signor Borham e restai in apprensione per mezz'ora, sempre in attesa che mi convocassero. Alla fine, infatti, ecco dei passi per le scale in corridoio, e poi mia zia che entrava nella mia camera e si richiudeva la porta alle spalle. «C'è Borham di sotto, vuole vederti. Zia, te ne prego, digli che sono indisposta. Sì, indisposta a incontrarlo. Che vai dicendo, cara, non scherziamo? È qui per chiederti in sposa a tuo zio e a me? Mi auguro che gli abbiate risposto che non è una questione sulla quale possiate intervenire voi. Come si è permesso di chiederlo a voi prima di averlo chiesto a me?» Helen? Che cosa ha detto lo zio? Ha detto che non si sarebbe intromesso e che se tu avessi accettato la gentile proposta del signor Borham. Gentile proposta? Ha detto così? No, ha detto che se intendi accettare per lui va bene, ma che sei libera di decidere come meglio credi. Giusto? E tu? Tu cosa hai detto? Oh, non ha importanza quel che ho detto io. Ti sta aspettando per parlarne con te. Pensa bene a quel che gli dirai e se hai intenzione di non accettare. Spiegami perché. Oh, lo rifiuterò di sicuro. Devi aiutarmi a farlo in modo educato ma fermo, e dopo ti spiegherò bene anche perché. Helen, un momento. Aspetta, il signor Borham non ha fretta ed è certo che gli dirà di sì. Ora dimmi perché vuoi rifiutarlo. Non puoi negare che sia un bravo uomo. No? Non puoi negare che sia anche sensibile, onesto, misurato. No, siamo d'accordo, ma. Quanti uomini simili ti aspetti di poter incontrare nella vita? Che siano bravi, sensibili, onesti e misurati. Non puoi rifiutare un uomo tanto nobile senza rifletterci bene. Lo definisco nobile perché dietro a ciascuna di queste qualità sono comprese molte altre virtù che potrei elencarti, le quali ti vengono messe ora a totale disposizione. Hai la possibilità di poterne godere per il resto della tua vita. Uno sposo degno, ottimo, tanto affezionato a te da non scorgere i tuoi difetti, disposto a guidarti. Ed esserti al fianco per sempre. Immagina. Zia, io lo odio, dissi interrompendo la sua insolita loquacità. Lo odi? E questo sarebbe uno spirito cristiano, Helen? Lo odi, un così bravo uomo? Ma non lo odio in quanto uomo, lo odio in quanto marito. Anzi, gli sono così affezionata che spero per lui che trovi una moglie altrettanto brava, se non di più, e che possa amarlo, dato che io non potrei mai. Ma per quale motivo? Innanzitutto ha più di 40 anni, mentre io ne ho appena 18. In secondo luogo ha una mentalità ristretta e bacchettona. Terzo, ha curiosità e inclinazioni diverse dalle mie. Quarto, trovo il suo aspetto, la sua voce e le sue maniere particolarmente odiosi. E per finire, nutro nei suoi confronti un'insofferenza che non potrei mai e poi mai vincere. Ma tu devi, e fammi il favore di paragonarlo al signor Huntington, se escludiamo la presenza, che certo non aggiunge nulla al valore di un uomo né alla fortuna di un matrimonio e a cui tu stessa affermi di non dare troppa importanza, dimmi chi è il migliore. Sono certa che il signor Huntington sia migliore di quanto credi, ma non stiamo discutendo di lui. Parliamo invece del signor Borham, e io ti dico che preferirei vivere e morire sola piuttosto che sposarlo. Quindi. Tanto vale diglielo, subito, senza tenerlo troppo sulle spine. Lasciami andare. Non rifiutarlo tanto bruscamente. Lui non se lo aspetta e ne soffrirebbe. Digli che in questo momento non stai ancora pensando di sposarti. Ma io ci sto pensando. O che vuoi prima conoscerlo meglio. Io non lo desidero affatto. Tutt'altro. Così dicendo, lasciai la stanza e andai in cerca del signor Borham. E lo trovai che passeggiava in salotto, cantando frammenti di canzoni e mordicchiando la testa del suo bastone da passeggio. «Mia giovane signora!» esclamò con un inchino. «Il vostro tutore mi ha dato il permesso di...» «Sì, lo so, signore!» dissi interrompendolo per tagliar corto. «La vostra preferenza mi lusinga, ma consentitemi di declinare la vostra proposta, in quanto non ritengo che voi ed io siamo adatti a stare insieme, e ve ne rendereste conto anche da solo dopo poco tempo, se ci provassimo.» «Mia zia...» Aveva ragione, non aveva dubbi che avrei accettato e non aveva previsto un rifiuto tanto brusco. Si mostrò sorpreso, ma era troppo incredulo per potersi sentire anche offeso. Disse qualcosa, si schiarì la voce e riprese a parlare. Sono consapevole, mia cara, che vi siano certe differenze tra noi, di età, carattere, forse anche altro, ma voglio rassicurarvi, non troverete in me un giudice severo delle lacune e delle debolezze che comporta la vostra giovane età e la vostra indole appassionata. Le noterò, certo, e le rimprovererò con affetto, ma al tempo stesso sarò paziente e dolce, più di quanto qualsiasi giovane innamorato potrebbe essere. E infine vi prego di non considerare gli anni di esperienza che ho in più un motivo di dispregio, poiché farò del mio meglio perché tutto sia messo a servizio della vostra felicità. Cosa mi dite dunque? Accantonate ogni puerile capriccio ed esagerazione e datemi una risposta. Lo farò. E vi ripeto quanto vi ho già detto, non ritengo che voi e io siamo adatti a stare insieme. Ne siete davvero convinta? Sì. Ma voi non sapete nulla di me. Non volete forse conoscermi meglio? Potremmo magari prenderci del tempo. No, vi conosco abbastanza e di sicuro meglio di quanto voi conosciate me, altrimenti non avreste mai pensato di sposare una donna tanto irragionevole e poco adatta a stare al vostro fianco. Io non cerco certo la perfezione, mia giovane signora, sono disposto a sopportare. Ah, vi ringrazio, signor Borham, ma non desidero forzare la vostra bontà. Serbate questa generosità per qualcuno che possa meritarla, senza metterla tanto duramente alla prova. Vostra zia è una donna di grande saggezza. Consigliatevi con lei, ve ne prego. Ho già parlato con lei e sono consapevole che i suoi desideri corrispondono ai vostri. Ma in merito a scelte tanto importanti preferisco riservarmi il diritto di decidere secondo il mio giudizio. Nessuno potrebbe farmi cambiare idea o convincermi che un simile passo farebbe la mia felicità o la vostra, se è per questo. E davvero non vedo come un uomo tanto saggio potrebbe mai scegliere per sé una sposa come me. Ebbene, disse lui, anche io me lo sono chiesto. Mi sono detto, Borham, la ragazza è dolce e affascinante, è vero, ma pondera bene la situazione prima di azzardare il grande passo. Spesso quel che seduce l'innamorato si trasforma per il marito nel peggiore supplizio. Posso dunque assicurarvi di non aver deciso senza un'attenta considerazione. Un'eventuale sconsideratezza di questo matrimonio è stata oggetto dei miei pensieri di notte e di giorno. Eppure alla fine sono giunto alla conclusione che non sarebbe affatto sconsiderata. La mia giovane ragazza aveva certamente delle mancanze, lo vedevo, ma non consideravo tale la sua gioventù, che ai miei occhi non rappresentava altro che un desiderio di virtù ancora in boccio. La mia presunzione mi ha convinto che certe piccole mancanze, errori di giudizio o di maniera, sarebbero stati facilmente corretti e contenuti con l'aiuto di un solerte consigliere. E laddove non fossi riuscito a mitigarla o correggerla, potevo perdonarla. Date le sue tante virtù. Io sono soddisfatto, insomma, e non vedo per quale motivo potreste avere da obiettare voi in merito a questo aspetto. Beh, signor Borham, diciamo che le mie remore riguardano me in particolare. Vorrei porre fine a questa conversazione. E avrei aggiunto volentieri qualcosa come in quanto proseguirla sarebbe inutile e non farebbe che peggiorare le cose, ma lui mi fermò. Ma per quale motivo? Saprei amarvi, prendermi cura di voi, proteggervi e tutto il resto. Insomma, non voglio perdere tempo a trascrivere nel dettaglio tutto il dialogo che è seguito. Sarà sufficiente dire che il signor Borham fu così insistente che trovai difficile fargli capire quanto fossi determinata e quanto sarebbe stato inutile per lui o per mia zia cercare di scoraggiare le mie motivazioni. Anzi, per la verità, non sono affatto sicura di esserci riuscita. E vedendo che non faceva che ripetermi le stesse cose, costringendomi a dargli sempre le stesse risposte, alla fine persi la pazienza e gli dissi: «Voglio essere chiara, niente e nessuno potrà mai persuadermi a sposarmi contro il mio volere. Nutro rispetto per voi o lo nutrirei se vi comportaste in modo più assennato, ma non vi amo e non potrei amarvi mai, anzi più vi ascolto più cresce la mia insofferenza, dunque vi prego, tacete ora». Mi augurò una buona giornata e si congedò. Confuso e offeso, ma di sicuro non a causa mia. Capitolo 17. La sera dopo andai con i miei zii a cena a casa del signor Wilmot. C'erano anche altre due signore. Una era Annabella, sua nipote, una ragazza affascinante e brillante, o per meglio dire una giovane donna, perché avrà avuto circa 25 anni. Troppo frivola per sposarsi, come diceva lei, ma che tutti gli uomini giudicavano splendida. Poi c'era sua cugina, Millicent Hargrave, che nutriva per me una certa adorazione, ritenendomi di certo migliore di quanto non fossi in realtà, e nei confronti della quale provavo anche io molta simpatia. Millicent è da ritenersi esclusa dalla mia insofferenza nei confronti delle donne. Ma non ho accennato a quella serata per parlare di lei né di sua cugina, ma piuttosto per via di un altro ospite del signor Wilmot, il signor Huntington. Ricordo particolarmente bene di averlo incontrato a quella cena, poiché fu l'ultima volta che lo vidi. Non sedeva accanto a me perché aveva l'onere di far da cavaliere a una signora anziana e piuttosto robusta, mentre io ero accompagnata da un suo amico, tale signor Grimsby, che trovavo particolarmente sgradevole. E il suo volto aveva qualcosa di inquietante, usava maniere che tradivano ferocia e malafede. Che usanza antipatica e fastidiosa. Non vedo perché, se gli uomini devono proprio accompagnare le signore a tavola, non possano scegliere quelle che vogliono. Ad ogni modo, non posso dire di essere sicura che il signor Huntington avrebbe scelto me. È probabile che avrebbe preferito la signorina Wilmot, la quale pareva alquanto ansiosa di attirare la sua attenzione che lui non le negava. Questa fu la mia impressione quando notai il modo in cui parlavano e ridevano tra loro o si guardavano trascurando i loro rispettivi vicini o quando poco dopo gli uomini ci raggiunsero nel soggiorno e lei lo chiamò a gran voce perché andasse a far da giudice in una discussione tra lei e un'altra signora. Lui rispose con sollecitudine e si schierò, in men che non si dica, dalla parte della signorina Wilmot, sebbene sono convinta che in realtà avesse torto lei. Restò a conversare con lei e altre signore mentre io ero con Millicent dall'altra parte della stanza, che guardavo i suoi disegni per offrirle spunti e consigli, come mi aveva chiesto. Malgrado i miei sforzi, ogni tanto il mio sguardo passava dai disegni al gruppetto che avevo di fronte. Sentivo montarmi la rabbia e andavo perdendo il mio autocontrollo. Millicent dovette accorgersi che non ero più tanto attenta ai suoi lavori e mi incoraggiò a tornare a godermi la compagnia, dicendomi che avremmo potuto osservare il resto dei suoi disegni un'altra volta. Le stavo giusto dicendo che non avevo alcuna voglia di godermi la compagnia e che non ero stanca di guardare i suoi scarabocchi quando il signor Huntington in persona si avvicinò al nostro tavolino rotondo. «Li avete fatti voi?» disse prendendo in mano un disegno. «No, li ha fatti la signorina Hargrave». Ebbene, vediamo un po'. Senza prendere in considerazione le proteste della signorina Hargrave, che non li giudicava degni di tanta attenzione, prese una sedia per mettersi accanto a me ed esaminò i disegni uno per uno mentre glieli passavo. Li guardò e poi li mise da una parte senza un commento. Eppure non aveva smesso un attimo di parlare. Ignoravo cosa pensasse Millicent Hargrave di quel comportamento. Personalmente trovai i suoi discorsi interessanti, sebbene col senno di poi realizzai che non aveva fatto altro che prendere in giro alcuni membri della nostra comitiva. Certi suoi commenti erano stati brillanti, altri divertenti. Tuttavia, a trascriverli così non renderebbero lo stesso effetto che ebbero invece accompagnati dai suoi gesti e dal suo tono, che rendevano affascinante tutto quel che diceva, tanto che sarebbe stato un piacere starlo a sentire, anche se avesse detto solo sciocchezze. Ecco perché l'arrivo di mia zia mi mise tanto di malumore. Si avvicinò al nostro tavolo con il pretesto di vedere anche lei i disegni, di cui non sapeva né le interessava nulla, e iniziò a rivolgersi a lui con maniere fredde e discorrendo del più e del meno al solo scopo di distogliere la sua attenzione da me, e mi dissi indispettirmi. Una volta terminato l'album, li lasciai alla loro conversazione e andai a mettermi seduta sul divano dall'altra parte della stanza, senza preoccuparmi troppo che il mio comportamento apparisse strano, più che altro per sfogare la rabbia che provavo e trovare il modo di pensare tranquilla. Ma non restai da sola troppo a lungo. Dopo qualche minuto, sfruttando il fatto che fossi lì per conto mio, venne a sedermisi accanto l'ultima persona che avrei desiderato vicino, il signor Wilmot. Ero convinta di aver scoraggiato la sua corte talmente bene in ogni altra precedente occasione da non avere più bisogno di preoccuparmene, ma mi sbagliavo. Contava così tanto sulla sua ricchezza, o credeva di poter sfruttare ancora qualche arma di seduzione, oppure riteneva a tal punto debole il sesso femminile da tornare all'attacco. E con maggior veemenza, per giunta, anche grazie alla buona dose di vino che aveva bevuto, cosa che lo rendeva ancor più insopportabile. Ma per quanto lo trovassi odioso, non volevo comportarmi in modo troppo brusco, giacché ero ospite in casa sua. Non ero però in grado di rispondere con un rifiuto che fosse al tempo stesso gentile ma deciso, né penso che sarebbe servito in fondo. Non avrebbe saputo cogliere un diniego che fosse meno palese della sua impertinenza. Quel Quindi si fece via via più melenso e ardente e io ero pronta a rispondergli dicendo chissà cosa quando sentii qualcuno afferrarmi la mano che pendeva oltre il bracciolo del divano con una lieve stretta. D'istinto capii chi fosse e più che sorprendermi quindi mi entusiasmò vedere che era stato il signor Huntington, il quale ora era lì in piedi che mi sorrideva. Mi sembrò di aver distolto lo sguardo da un demone del purgatorio per posarlo su un angelo luminoso arrivato ad annunciare che le mie sofferenze erano finite. Helen, mi disse, spesso mi chiamava così e io non scoraggiavo questa libertà. Vorrei che veniste a vedere quel dipinto. Sicuramente il signor Wilmot vorrà scusarci. Io mi alzai di scatto e lui mi prese sotto braccio per condurmi davanti a un notevole dipinto di Van Dyck, che già avevo notato senza averlo ancora esaminato con attenzione. Rimasi qualche istante ad ammirarlo in silenzio, per poi cominciare a discutere di come fosse bello e particolare, mentre lui mi strinse affettuosamente la mano che ancora tenevo sotto il suo braccio e mi disse: Via, Helen, non era certo per questo che volevo portarvi qui. Era per sottrarvi a quel vecchio intemperante che, a quanto vedo, è pronto a sfidarmi per lavare l'onta dell'affronto. Vi ringrazio, gli dissi. Mi avete già liberato due volte da una sgradita compagnia. Non mi siate riconoscente, esclamò allora. Non lo faccio solo per galanteria. È il disprezzo che nutro nei confronti di chi vi assilla a spingermi, sebbene non abbia motivo di temerli in quanto rivali, non è vero, Helen? Come sapete, li odio entrambi. E odiate anche me? Oh, non ho motivo di odiarvi. E cosa provate per me allora, Helen? Ditemelo. Cosa pensate di me? Mi strinse nuovamente la mano, non tanto per affetto, mi parve, quanto per esercitare un potere che sentiva di avere su di me. Pensai che non fosse opportuno chiedermi di confessargli la mia predilezione prima di essersi dichiarato e quindi gli domandai: E voi come mi vedete? Siete un dolcissimo angelo e io vi adoro. Io. Helen, potresti venire qui un istante? Sentì mia zia chiamarmi da dietro con voce bassa. La raggiunsi mentre Huntington imprecava contro la sua cattiva sorte. Dimmi, zia, che cosa vuoi? Le chiesi, seguendola verso la finestra. Non appena sarai tornata in condizioni rispettabili, voglio che tu ti unisca al resto degli invitati, disse guardandomi severa. Ma aspetta ancora un momento che quel colorito sconveniente si ritiri un po' e i tuoi occhi riprendano un'espressione normale. Se qualcuno ti vedesse in queste condizioni me ne vergognerei. Le sue parole non fecero che peggiorare la situazione del mio scolorito sconveniente e mi sentii arrossire ancora di più, in preda a tante diverse emozioni, tra le quali primeggiava la rabbia. Non dissi niente, scostai la tendina e guardai la piazza illuminata dalla luce dei lampioni. «Il signor Huntington ti ha fatto forse una dichiarazione?» chiese Severa. «No». «E che cosa ti stava dicendo? Ho sentito qualcosa del genere?» «Invece». «Non ho idea di che cosa avrebbe detto, infine, se tu non l'avessi interrotto». «Se si fosse dichiarato, Helen, tu l'avresti accettato?» «Ma no, certamente, non prima di averne parlato con te e con lo zio». «Beh, mi solleva che ti sia rimasta ancora un po' di cautela». Ebbene, per questa sera penso che tu abbia già dato abbastanza nell'occhio e vedo che le signore già ci stanno guardando. Sarà meglio che io torni da loro. Aspetto che tu ci raggiunga non appena sarai tornata presentabile. Oh, sono già presentabile. Allora sii garbata e non esprimerti con tanta durezza, mi rispose lei in tono calmo e irritante. Ce ne andiamo presto stasera, aggiunse, e quando saremo a casa faremo un bel discorso. Tornai verso casa aspettandomi questa lunga ramanzina. Durante il viaggio in carrozza non ci scambiammo che poche parole, ma appena raggiunsi la stanza e mi accomodai in poltrona a ripensare a tutto quel che era successo, arrivò anche la zia, che congedò Rachel, che stava mettendo in ordine i miei accessori, e si chiuse la porta alle spalle. Venne a sedersi vicino a me con una sedia e io le offrii di prendere il mio posto in poltrona, ma lei rifiutò e cominciò a parlare. Helen, ti ricordi quello che ci siamo dette la sera prima di partire da Stanningley? Sì, zia. Allora ricorderai che ti avevo messa in guardia invitandoti a non innamorarti di chi non lo meritava, di non affezionarti a nessuno senza che avesse prima superato il tuo giudizio. Sì, e il mio giudizio, perdonami, Ricorderai anche di avermi assicurato che non avevo nulla da temere, che non avresti mai voluto sposare un uomo senza senno e senza valori, neppure se fosse stato bello o affascinante, perché mai potresti amarlo, anzi lo disprezzeresti, magari proveresti compassione, bla bla bla, qualsiasi cosa ma non l'amore. Non è forse questo che mi dicesti quella sera? Sì, ma e non dicesti che il tuo amore si sarebbe fondato per forza sul tuo giudizio? Che devi poter rispettare l'uomo che sposi o non potresti mai amarlo? Sì, e io rispetto, ma cosa dici, cara? Il signor Huntington ti pare un brav'uomo? È migliore di quel che credi. Lascia stare, ti chiedo, è un brav'uomo? Sì, ha un buon carattere. È un uomo di sani principi? Forse no, ma questo perché agisce senza riflettere. Se avesse accanto qualcuno disposto a consigliarlo, a guidarlo. Oh, pensi che migliorerebbe dunque? E tu ti renderesti disponibile a fargli da guida? Ma ti chiedo, come mai sei così tanto più matura nei tuoi giudizi morali di un uomo che ha almeno 10 anni più di te? Perché, zia, tu mi hai cresciuta nel modo migliore e ho sempre avuto dei buoni esempi, cosa che lui probabilmente non ha avuto. Inoltre è un istintivo, ha un carattere allegro, mentre io sono di natura più riflessiva. Lo hai appena descritto tu stessa come un uomo manchevole di buon senso e dirittura morale. Ebbene, il mio buon senso e la mia dirittura morale sono a sua disposizione. Direi che è ambizioso da parte tua pensare che le tue doti possano bastare per tutti e due. E come pensi poi che un tale libertino si faccia guidare da una ragazza tanto giovane? Ma io non voglio guidarlo. Sono convinta che potrei influenzarlo risparmiandogli alcuni errori. Sarebbe una vita ben spesa la mia, nell'intento di proteggere una natura così nobile. Vedo che mi presta sempre ascolto quando gli parlo in tono serio e mi è capitato spesso di rimproverarlo per la sua impulsività. E mi dice che se fossi sempre accanto a lui smetterebbe di dire e fare sciocchezze, che gli basterebbe parlare con me anche poco ogni giorno per diventare un santo. Un po' lo dice per scherzare e un po' per lusingarmi, ma comunque. Tu credi che sia vero? Sì, e non tanto perché penso di avere chissà quale capacità, ma perché confido nella sua bontà. Inoltre, non definirlo un libertino, zia, perché non lo è. Ah no? Non ricordi di quella storia che ha avuto con una donna sposata? Non ce la raccontava proprio la signorina Wilmot giorni fa? Sono calunnie, gridai, non credo nemmeno a una parola. Quindi lo ritieni un uomo leale e virtuoso? Non posso affermare niente di così preciso su di lui, ma non posso dire di avere mai sentito niente che l'abbia messo in cattiva luce, niente che possa essere anche dimostrato. Se ha commesso qualche errore, l'avrà fatto in grazia della sua gioventù, e di sicuro nessuno sembra prestarvi troppa attenzione, dato che, da quanto vedo, è simpatico a tutti. Le madri gli sorridono, e anche le figlie, inclusa la signorina Wilmot, e sembrano tutte ansiose di attirare la sua attenzione. Helen, Helen. Certe mancanze possono apparire insignificanti per molte persone, è vero. Ci sono madri che farebbero di tutto per assicurare alle proprie figlie un giovane ricco e libero, a prescindere dalla sua natura. E le ragazze senza cervello sono ben contente di conquistare un ragazzo tanto affascinante e non si preoccupano di andare oltre l'apparenza. Speravo che fossi in grado di giudicare la situazione diversamente, senza vederla coi loro stessi occhi. Sono sicura che se ti liberassi da questa momentanea distorsione, non riterresti queste mancanze tanto insignificanti. Siamo d'accordo, zia. Diciamo allora che se da un lato disprezzo i peccati, dall'altro amo il peccatore e farei di tutto per redimerlo, sempre ammesso che i tuoi sospetti siano fondati, cosa che non credo. Allora domanda a tuo zio che compagnia si è scelto. Frequenta un gruppo di ragazzi libertini come lui che definisce amici, che si dedicano ai vizi più smodati, gareggiando tra loro a chi corre più forte e più lontano sulla strada per la casa del demonio. Ebbene, lo salverò da loro. Oh, Helen, possibile che tu non capisca che terribile destino ti aspetterebbe se ti legassi a un uomo del genere? Ho talmente tanta fiducia in lui che sarei disposta a sacrificare la mia stessa felicità in nome della sua. Che gli uomini migliori se li prendano le ragazze che pensano solo a se stesse. Se davvero ha commesso degli errori, mi impegnerò a proteggerlo dalle conseguenze e mantenerlo sulla retta via. Voglia Dio concedermi successo. A quel punto la conversazione fu interrotta dallo zio, che stava chiamando la zia dalla camera perché lo raggiungesse a letto. Era di cattivo umore per via della sua gotta, che era andata via via peggiorando da quando eravamo arrivati a Londra. Ed ecco che la zia ne approfittò per convincerlo a tornare in campagna prima della fine della stagione. Il dottore appoggiò la sua intuizione e, contrariamente al solito, la zia organizzò un trasferimento rapidissimo per il mio bene tanto quanto per quello dello zio, immagino, e ce ne tornammo in campagna nel giro di pochissimi giorni. Non ho mai più visto il signor Huntington da allora. La zia crede che io possa dimenticarlo, anzi, forse crede che io l'abbia già dimenticato, dato che non lo nomino mai, e può continuare a pensarlo, almeno fin quando lo rivedrò. Mi chiedo se mai accadrà.